mi inserisco in questa vostra adorazione per offrirvi qualche spunto di meditazione per proseguire dialogo con Gesù, il vostro dialogo adorante, il vostro anche ascolto di quello che lui vuole dire al vostro cuore. E io parto da un brano del Vangelo che si leggeva ieri nel rito ambrosiano, vediamo se lo ritrovo. E questo è un brano del Vangelo di Marco che dice così, al capitolo sesto. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Questo fare e insegnare, no? Gli apostoli imitano Gesù che, ecco, dice il Vangelo, cominciò a fare e a insegnare. Prima con i gesti, prima con il suo comportamento insegnava e poi con le parole. Poi gli apostoli vanno e vengono anche mandati da Gesù e intorno a lui, in giro, anche davanti a lui, prima che lui entri in un villaggio, a volte mandava i suoi discepoli. E poi loro tornano e raccontano, no? Questo potrebbe essere anche il senso della vostra preghiera adesso, no? Considerandoci noi discepoli del Signore, apostoli di Gesù, sappiamo di esserlo, inviati da Lui, no? Come il Padre ha mandato me, io mando voi, lo ha detto ai dodici, ma lo ha detto anche a tutti gli altri suoi discepoli, a tutti noi che siamo battezzati in Cristo Gesù, nella Chiesa, che siamo Suoi figli, che siamo un altro Cristo, siamo mandati, ci sentiamo mandati dal Signore in forza del nostro battesimo, lì dove siamo, no? Inviati da Dio, come Gesù fu inviato dal Padre. E quindi torniamo da te, Gesù, a raccontarti quello che abbiamo fatto. E ti possiamo raccontare tutta la nostra vita, anche le vicende del lavoro, le vicende dei nostri affetti, no? Perché anche in questo fare noi cerchiamo di essere tuoi figli, cerchiamo di essere tuoi discepoli e in questo fare cerchiamo di renderti presente in mezzo al mondo. E poi anche qualcosa che abbiamo detto in nome tuo a un amico, a un collega, alle persone che conosciamo. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Anche questo è qualcosa che noi stiamo facendo in questo stesso momento, no? Avete trovato un po' di tempo di distacco dal lavoro, dallo studio, per riposare un po' nella compagnia di Gesù. E tu, Gesù, lo impariamo da te, lo impariamo dal Vangelo, lo impariamo nelle parole di Benedetto XVI, diceva nel suo libro su Gesù: Gesù è il nostro sabato, no? Cioè il nostro riposo. Riposiamo nell'amore di Dio, riposiamo nel sentirci amati da Dio, riposiamo nel riversare nel tuo cuore, Gesù, tutte le nostre preoccupazioni, no? Tutte le nostre intenzioni, tutti i nostri desideri. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Erano così presi gli apostoli di Gesù da tutta la gente che cercava Gesù, che cercava di ascoltarlo. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte, molti si Però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Allora noi, Gesù, in questo episodio della tua vita, noi vediamo la tua compassione per le folle, ma prima ancora la vediamo per i tuoi discepoli, no? Perché sono stanchi, perché hanno fatto tanto. Quindi tu, fra l'altro, è interessante vedere come non chiedi ai tuoi discepoli una, non so, una dedizione senza riposo, no? Una dedizione che porti allo sfinimento. Non gliela chiedi, anche se poi dopo è organizzata questa escursione di riposo, questo momento di stacco da questa attività missionaria, da questa attività pastorale, la chiameremo forse adesso così, apostolica, e alla fine poi la cosa non funziona e quindi ricominciano a lavorare, no? Però è bello vedere, Gesù, che tu proponi ai tuoi discepoli anche riposo, anche stacco, e un distacco dall'attività abituale che sia tra di loro, cioè nella famiglia dei discepoli, e con te, no? È qualcosa che cerchiamo di fare anche noi. Compassione per i tuoi discepoli, compassione per la loro fatica, compassione per il loro bisogno di stare con te, e compassione anche per tutta la folla, perché sono come pecore che non hanno pastore. Cioè Gesù tenta di dare un po' un ordine alla sua attività, però poi lo vince la passione per la gente, la passione per le relazioni, la passione per l'aiuto, possiamo dire la passione d'amore, quella passione d'amore che già mi pare che Origene dicevano che Dio aveva, no? Che il Dio della Bibbia aveva rispetto al Dio dei filosofi. In Gesù noi vediamo anche nell'Antico Testamento, quando ancora Dio non si è incarnato, vediamo questa che Dio si lascia vincere da una passione d'amore per noi. E poi dopo, fra l'altro, il brano del Vangelo continua addirittura con una moltiplicazione dei pani, perché questi poi devono tornare a casa, non hanno da mangiare, e Gesù dirà: date voi loro da mangiare. Noi possiamo in questo momento di adorazione contemplare, Gesù, non solo la tua presenza nascosta, no? Sotto le apparenze del pane, ma tu che ti fai pane per noi, no? Che sei cibo per noi, ecco, questo cibo che i discepoli danno in figura, cioè in anticipo, abbiamo bisogno anche del pane quotidiano, no? Assolutamente, e gli dai pane da mangiare, però in qualche modo fai intravedere questo cibo che è per tutti, che è l'Eucaristia, no? Un cibo che è pegno di vita eterna, e cioè che sei tu stesso, Gesù, per tutti. Hai questo desiderio di arrivare a tutti, no? Come pecore che non hanno pastore. Allora noi vediamo, contempliamo, leggendo il Vangelo, la tua compassione per i discepoli, il gruppo più ristretto, quelli che stanno vicino a te, per le grandi folle, no? I grandi numeri, 5.000, senza contare donne e bambini. E poi dopo vediamo la tua compassione per le singole persone, no? Ci sono molti brani del Vangelo, alcune decine, in cui Gesù incontra personalmente una persona, no? E si vede che tu sei proprio interessato a ciascuno di noi, no? Quindi quando ciascuno di noi si può sentire cercato da Gesù per nome, amato da Gesù per nome, no? E chiamato da Gesù per nome, in modo assolutamente personale, in modo unico, E la stessa cosa la possiamo dire a ciascuno, a tutti, no? Quindi quegli episodi del Vangelo sono esemplari per tutti, non so, ecco Gesù che incontra, tu che incontri il paralitico, no? Che i quattro amici gli fanno scendere scoperchiando il tetto che era fatto di travi, di, insomma, scoperchiarle, no? E gli dici, ti sono perdonati i tuoi peccati, no? Sconvolgendo tutti. Oppure tu che ti avvicini a Pietro e gli dici, tu sei Pietro, no? E su questa pietra edificherò la mia chiesa. O ti avvicini a Natanael e gli dici, ecco un israelita in cui non c'è falsità. Cioè, gli fai vedere a tutti questi personaggi che tu incontri, che tu li conosci profondamente. Infatti Giovanni l'Evangelista nel suo Vangelo è colpitissimo da questa realtà e dice in effetti lui conosceva ciò che c'è in ogni uomo, no? Quindi le persone si sentivano profondamente conosciute da Gesù e amate profondamente, no? Gesù lo fissò e lo amò, no? Si notano. Nota San Marco per il cosiddetto giovane ricco, no? Che diceva che aveva compiuto tutti i comandamenti fin da giovane. E possiamo dire, Gesù, che tu ami ciascuno così come lui è, e quindi anche cerchi di dialogare con lui usando anche il suo linguaggio, no? Pensate a Pilato, no? Al quale dice. Pilato gli chiede, tu sei re? E Gesù gli spiega che avrebbe potuto, che il suo regno non è di questo mondo, però che avrebbe potuto chiamare 12 legioni di angeli, no? E in qualche modo utilizzando il linguaggio del militare romano, no? E poi quando tu Gesù parli alla gente usi un linguaggio che loro capiscono, le parabole che parlano del loro lavoro, del seme gettato nel campo che poi, ecco, della pesca che non arriva, o i gesti che spiegano, per esempio la moltiplicazione dei pani. E in questi gesti tu, Gesù, sai anche sconvolgere il tuo uditorio, le persone che stanno intorno a te, fai qualcosa di grande, di eccessivo, no? Di fuori dalle regole. Quando incontri quella donna cioè, anzi, quando senti nel tuo corpo, perché San Marco dice così, Gairo gli dice mia figlia sta morendo e Gesù dice, andiamo, no? Andiamo a curarla, a guarirla, e poi in realtà la farà risorgere dalla morte. Però in questo tragitto breve, tutta la folla lo stringe e una donna da dietro gli tocca il mantello, perdeva sangue da 12 anni, non guariva, i medici l'avevano fatto spendere tutto, ma non erano riusciti. E Gesù sente, dice San Marco, subito, subito, cioè istantaneamente sente che una forza è uscita dal suo corpo, no? Vedete come è importante il corpo per Gesù, no? E è ovvio che sia così, perché Dio Padre e Dio Figlio e Dio Spirito Santo hanno scelto l'incarnazione. Cioè che Dio prendesse un corpo come il nostro, la nostra natura, perché attraverso questo corpo ci potesse salvare, per dirci che la nostra natura è buona, l'ha creata Lui. Non vince il peccato, vince la forza di Dio. E attraverso il suo corpo ci arrivano i sacramenti, ci arriva la grazia, ci arriva la guarigione. Lui tocca, prende per mano, guarisce, dà la vita. Usa la saliva per dare la parola al sordomuto, fa del fango, lo mette sulle palpebre con la sua saliva e poi no, mette la mano dentro alle orecchie, no, del sordo. Insomma, altre volte guarisce da distanza, non è legato a questa sua corporeità, però la vuole usare. E la donna subito sente che è guarita e lui dice: chi mi ha toccato? Come tutti ti toccano, ti stringono. E invece quella donna capisce: lui la vuole incontrare personalmente, vuole conoscere il suo sguardo, no? Anche vuole farle capire che non ha fatto nessun peccato, perché loro, questi, nella loro religione, nella loro cultura, una donna che perdeva sangue era impura, quindi non voleva rendere impuro Gesù, cioè, e per questo è anche se si è avvicinata da dietro, no? E voleva dire: non c'è nessun problema, no? E ti riabilito di fronte a tutti, no? Tu sei pura. E quindi puoi ritornare ad avere relazioni con tutti e dirai in giro che se è stato il toccare il mio mantello che ti ha guarita. Quando pensate quel famoso brano della peccatrice in casa di Simone il Fariseo, che lo tocca e il fariseo pensa: se sapesse chi è quella donna che lo tocca, se fosse profeta saprebbe, e come dire, non si lascerebbe toccare, no? Da una peccatrice. E invece Gesù, poi con sapienza, gli fa una piccola parabola, un piccolo indovinello, no? E Gesù conosce tanti linguaggi, no? Possiamo dire tutti i linguaggi, anche quello dell'indovinello, no? Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? E Simone rispose: suppongo, no? Teme di sbagliare la risposta, sia colui al quale ha condonato di più. E gli dice Gesù: hai giudicato bene. E così prepara un po' il suo cuore, ha vinto, no? Ha vinto il premio e ha indovinato, e quindi Gesù lo incoraggia: hai giudicato bene adesso, prima avevi giudicato male, ma non glielo dice così, glielo fa capire poco a poco. E quindi con uno stesso gesto, con uno stesso dialogo, salva due persone, lui e la peccatrice. E gli interessa questa peccatrice, gli interessa Simone il fariseo, gli interessa toccare il cuore dei farisei che pensano di essere buoni davanti a Dio perché compiono alcune regole esterne. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. I commensali protestano, ma lui dice: va, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. E in questo noi vediamo che Gesù accoglie il linguaggio di questa donna e anche è contento, gli fa piacere che questa donna lo ami così. È un linguaggio molto umano che lui accoglie, che lui accetta. Sa vedere il cuore, no? Mentre quell'altro giudica esteriormente e giudica un gesto di carezza, di bacio, come se fosse di peccato, come se fosse con un'intenzione negativa. Invece Gesù, che sa leggere il cuore, vede che quel gesto è un gesto d'amore. Quanto ci serve Gesù questa... Guardare la tua compassione per ciascuno di noi, la compassione per i peccati, e allo stesso tempo il tuo desiderio d'amore, e allo stesso tempo la tua capacità di vedere nel nostro cuore il nostro cuore, no? Quindi qual è l'orientamento del nostro cuore. Non ti fermi all'esteriorità, no? Come fa il fariseo. E il tuo desiderio di salvare rompe gli schemi. Il tuo desiderio di salvare rompe gli schemi. In una meditazione, anzi in un corso di esercizi che uno degli ultimi hanno pubblicato da poco, che ha predicato Cardinal Martini a Gerusalemme, sì, quando era là, e ha fatto una serie di meditazioni proprio sulla figura di Maria Maddalena, e tradizionalmente questo episodio era applicato a Maria Maddalena, anche se oggi tendono gli esegeti a dire che sono, siccome non c'è il nome, sono donne diverse, no? Però, in una meditazione su questo percorso di vita di questa discepola di Gesù, una di queste meditazioni la intitola in modo provocatorio "Solo l'eccesso salva", no? Poi spiega un po' cosa vuol dire. Dice che il peccato si manifesta a volte come eccesso di male, e lo vediamo, no? Lo possiamo notare in noi, ma lo possiamo notare nella storia degli uomini. Pensate, sì, tanti episodi della storia, cioè questi genocidi, pensate, no? Ma ogni omicidio è un eccesso di male, no? Le torture, cioè ci sono, e dobbiamo, a volte noi tendiamo a non guardare giustamente perché ci fa star male, ma a dimenticare, no? Però non dobbiamo chiudere gli occhi all'eccesso del male, no? Non dobbiamo chiudere gli occhi anche a quelle che, mi ricordo Giovanni Paolo II, le chiamava volentieri le strutture di peccato, cioè a volte ci sono anche delle strutture umane, cioè un'organizzazione intera, un modo di intendere il lavoro, non so, che è una struttura stessa che perché fa peccare molti, no? C'è nel mondo un eccesso di male. Noi poi pensiamo a ciascuno di noi, diciamo, abbi pietà di me peccatore, abbi pietà di me peccatore, abbi pietà di me peccatore, no? Però poi dopo guardiamo Gesù e guardiamo anche la Chiesa, guardiamo i santi, c'è un eccesso di bene. E proprio oggi un prete amico mi mandava il ricordo che un 7 febbraio, durante la guerra, la seconda guerra mondiale, furono martirizzati 30 francescani nella zona dei Balcani, in Erzegovina, no? In odio alla loro fede, no? E hanno cercato di lasciate l'abito, no? Pregando litanie alla Madonna, l'hanno fatti fuori uno per uno. Ecco, pensiamo ai martiri, no? Anche nella messa di questi giorni, spesso si ricordano martiri, no? Il martirio è proprio un eccesso di male da parte di chi lo provoca, un eccesso di bene da parte di chi è disposto a dare la vita per Gesù, per la fede in Cristo, no? E un eccesso del bene si dà nei santi, no? Pensate in questa meditazione citava il bacio di San Francesco al lebbroso. E il suo spogliarsi davanti al Padre, è così, no? Madre Teresa di Calcutta che si dedica ai moribondi, cioè non, quelli che non hanno più niente da dare, anche i moribondi che non avevano neanche il battesimo. Mi viene in mente, pensando al bacio di San Francesco, mi viene in mente il bacio Papa Francesco si fa fermare qualche anno fa è successo, la macchina lì in Piazza San Pietro perché ha visto quell'uomo tutto deformato da una malattia della pelle che lo rendeva un po' insomma, che dava repulsione, no? E invece lui si ferma, lo va, lo accarezza, lo abbraccia, lo bacia. Senza domandarsi se, no? Se era contagioso. Pensando anche, vedete anche adesso, quando era stato a Panama è girato un filmatino di 1 minuto e mezzo in cui lo si vedeva che passa con la papa mobile e poi intravede un cartello, una signora anziana, 99enne, che dice: sono cieca, dammi un abbraccio, no? E il papa fa fermare la macchina, scende e va da lei, la benedice, la carezza, l'abbraccia, così parla con lei, e questa povera donna ha avuto quello che ha chiesto. Si dà modo di vedere Gesù che si ferma con l'emorroissa, no? Cioè non si lascia prendere da c'è un programma, c'è un orario, adesso poi faccio aspettare la gente dall'efficienza, no? Sono eccessi del bene. Nelle parole di Gesù si vede questo eccesso del bene. Gesù che dice amatevi come io vi ho amato, che vuol dire dare la vita, amatevi, e chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Beati, no, i perseguitati, cioè, sono parole eccessive. E poi nei suoi gesti, e fino ad arrivare sulla croce, perché lui non ha, ecco, non teme questo eccesso di scandalo, cioè già lungo la vita ha detto il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, e guarisce nel giorno di sabato, e se la piglia con chi è così ligio a queste regole che poi va contro la carità. Però con la croce dice: vado a Gerusalemme e sono disposto a passare per colui che è maledetto da Dio perché va sul legno della croce. Perché così vinco il demonio, cioè vinco in modo profondo questa tentazione dell'uomo di trovare bene solo, ecco, nel consenso degli altri e nel consenso così del popolo, e sbaraglio questo modo sbagliato di vivere l'antica legge e apro alla legge nuova dell'amore. E manifesto in un modo incontrovertibile quanto Dio ama l'uomo, quanto è disposto a perdonarlo per i suoi peccati fino a dare la vita, no? Allora noi guardiamo questo eccesso di bene, mi piace questo modo di dire, che sta nella vita di Gesù e ci fidiamo e ci aggrappiamo, cioè Gesù, tu ci chiedi di non dare mai così grande retta al nostro peccato da pensare che non sia perdonabile, da non dare mai così grande retta ai nostri difetti, alle nostre debolezze, alle nostre mancanze, da pensare che non siamo amati da te, che non siamo continuamente chiamati da te ad essere i tuoi apostoli. Gesù vede, dopo che risorge, i suoi discepoli che non credono in lui, e lui gli dà il mandato apostolico, cioè va sempre al di là. Cioè, perché Dio è così, perché la Trinità è così, perché per questo ha creato il mondo, l'uomo e la donna, e come diceva Sant'Ambrogio, no, in quel suo famoso discorso sui 6 giorni della creazione, finalmente può riposare il Signore il settimo giorno. Ma perché? Ma perché finalmente ha creato l'uomo e la donna, esseri liberi, che poi peccheranno, e lui finalmente ha qualcuno a cui perdonare il peccato, cioè può amare fino alla fine, no? Può amare davvero, può amare liberamente. Crediamo questo, Gesù, che è il nucleo della tua rivelazione, però ti chiediamo la grazia per crederlo davvero, e ci rivolgiamo a Maria Santissima, che è testimone di questo tuo cuore, che è testimone di questa tua vita donata sulla croce, che noi ci speriamo sempre, che noi ci crediamo sempre, che noi che noi non perdiamo mai la fede, la fiducia nel tuo amore. Credo nel tuo amore infinito, nel tuo amore misericordioso, che è capace di perdonare i miei peccati e i peccati di tutti gli uomini, anche i più efferati, quelli che io farei infinita fatica a perdonare, tu invece no. Allora ti chiedo di conoscere il tuo cuore misericordioso, di entrarvi dentro e di farlo come la regola della mia vita.